Sono chiuso nella coscienza della chiusura della coscienza in un solo corpo e della conseguente struttura asintotica della comprensione. Taccio per pochi secondi lasciandoti il tempo per mettere insieme i pezzi. Puro autocompiacimento concettuale, se non lo consideriamo necessariamente un male, magari ne apprezziamo i mezzi. C'è chi lo fa con l'auto nuova, che con la nuova amorosa si regge al test delle curve come un'auto nuova. Chi con il sospetto come l'amorosa che sa ed accetta di essere solo un'auto nuova. Chi col come me che aspetto, non ho la patente. Dei miei pezzi richiederà queste pause finché avrò la volontà di sfidare la tua capacità di comprensione. Causa della velocità delle mie composizioni, la quale richiede un conto a chilometri come cosa, dai, che hai capito? Come forse hai capito che sono una persona insicura e che la quantità di promozione dei miei CD di cui ho bisogno è inversamente proporzionale alla mia indipendenza etica. Perché non faccio sentire i miei CD per amore del prossimo, ma per ricevere conferme. Me le vuoi dare anche stavolta? Medita. Ora che mi sono smascherato, temi che non ti possa piacere il resto del CD? Solo se il tuo fine è la suspense, conoscere l'identità dell'assassino prima della visione rovina la degustazione di un film. Inoltre non esiste smascheramento definitivo, in quanto io cambio, ogni conoscenza semplifica. E più la mia vanità si limita rivelandosi in un'autocritica più si amplifica. Il punto è che tu mi chiedi se per me o per gli altri che scrivo ogni mia rima. Ora so che in ogni caso il fine è comunque la mia autostima, quindi cosa cambia? Resto un birro. Ma forse sto cadendo nel concetto di onestà e coerenza con il background, che ha reso gli MC orgogliosi delle loro abitudini più grezze, mentre sono giunto alla necessità di applicarlo al di là di una totale sincerità. Perché nessun mare in cui tutti possono notare limpido e si sporca di gossip. E perché se la musica in me esprime l'inesprimibile, i miei testi esprimono l'esprimibile, quindi i miei problemi più grossi restano dentro di me o comunque per me, per quelli che seleziono direttamente. Ma quando comunicare serve solo a dare una forma per rielaborare linguisticamente. Posso anche ripetere a voce alta da solo, autonomamente. Stai chiedendo cosa c'entra tutto questo col titolo, sappi che hai scelto volontariamente, incoerente, come ogni riflessione che non ha niente a che fare col tema iniziale, ed è inserita in un testo per renderlo più lungo in modo che lo si ascolti solo quando si ha veramente voglia di ascoltare. Se no la comprensione viene male, non viene per niente, ma di sicuro fuori dal contesto musicale devo ancora imparare a parlare lentamente. Trovata delle pause non è granché originale, infatti crea solo suspense e un pretesto. Tanto so che a molti resta solo il beat quando interrompo il testo. O chi vuole davvero comprendermi si crea autonomamente le sue pause dopo il pezzo, durante, tramite l'omonimo tasto. Vuoi un break? Spezza con chi cazzo sarà interessato a sti miei viaggi. E perché non li espongo in modo più esteso e meticoloso tramite dei saggi? Forse perché i testi accademici a volte ci rendono dei pagliacci che fanno ridere proprio per la pretesa di scientificità. Io almeno sono un pagliaccio e mi piace così. E nel 2000 uno dei ruoli che somiglia più al buffone l'MC. So che ogni teoria rivela soprattutto il motivo per il quale è stata creata, come questa pagliacciata nata giocando con gli schemi che ipotizza applicabile al mio operato. Forse per una paura inconscia di essere giudicato, come quando ho paura di non essere eccitante. Ma schivo lo specchio dell'autostima estetica che in un istante si sublima nell'autostima di un'etica danzante. Quindi il problema è nel rapporto col mio corpo che scordo, cercando il centro dell'attenzione in ogni mio rapporto. Potrei linkarti diversi ipotetici traumi infantili che mi hanno formato in passato, come il ruolo di cantante principale che al concerto delle elementari mi è stato negato, o quello di protagonista nel teatrino dell'asilo. Sì, lo posso considerare, ma come ogni dato, ovvero immersi in un mare di cause casuali delle quali ho sondato solo minime percentuali. Quindi ogni autoanalisi deforma necessariamente. Mi tolgo maschere cercando il volto sottostante, ma questa metafora pretende una verità coerente dove c'è solamente un contingente intreccio di pulsioni. Posso solo crearmi una maschera coerente in un testo come questo, ma essendo ingenuo ed onesto poi vorrò sentirmi all'altezza di quella maschera, non solo nell'arte ma anche nel resto. Quindi sono un commediante nell'arte e l'imitazione di quel commediante nella vita restante. Pezzi per i patetici, non aristotelici, ma per i patetici.